Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Any discussion of this document or its contents will be regarded at the very least as an act of sedition, if not a willful act of treason. Is that understood, Mr. Finch? Yes, sir. You would do well, Inspector, to put it out of your mind. Oh, Si è aperta con Seattle la seconda parte di Eclettica. Eclettica che va in onda tutti i giorni, non me ne vogliano coloro che ben lo sanno, ma chiaramente mi rivolgo a quelli che eventualmente passano da queste parti per la prima volta. Vi stavo dicendo, va in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni. Giulio è radiorockfm.com, questo l'indirizzo da utilizzare per scrivermi e anche per iscrivervi alla lista nera, cioè per ricevere ogni settimana la playlist della trasmissione. Trasmissione che, al di là della diretta di cui già vi ho dato gli orari, può avere una replica da voi completamente autogestita, nel senso che la differite come quando preferite, a seconda delle vostre esigenze, dopo averla scaricata grazie al podcasting. Vi dicevo di Seattle, ovvero sia Grand Archives come gruppo e Sub Pop come etichetta. Grand Archives, che sono usciti per Sub Pop con l'album del quale sono andato ad estrarre Torn Blue Foam Coach. Poi siamo passati dalle parti di Austin in Texas con Yellow Fever, Hellfire era il titolo del brano della formazione texana che si è chiuso pochi secondi fa. Ed ora invece Russia come origine, anche se poi è a tutti gli effetti un artista newyorkese dopo essere passata per l'Alaska. Lei si chiama Belle, non ho ancora capito se Belle è il nome di un gruppo, il gruppo di Olga Belle, o preferisce utilizzare solo il suo cognome. Ci sarà tempo per capirlo. Belle, che già conosciamo per la cover dal vivo che metteva assieme Thom Yorke e i Radiohead e che ora sta per esordire con un EP dal quale vado ad estrarre Chunk. The

Nelle ultime settimane di Eclettica avevate sentito una canzone intitolata Sad Sad City di una formazione il cui nome è Ghostland Observatory. Un pezzo questo del 2006, un pezzo che io ho deciso di trasmettervi dopo essere venuto a conoscenza dell'esistenza di questa formazione grazie all'annuncio del nuovo album che sarebbe stato in uscita. E quindi ho ritenuto opportuno far fare anche a voi lo stesso percorso, prima ascoltare le cose vecchie per poter apprezzare in maniera diversa le cose nuove che finalmente sono arrivate a mia disposizione e quindi anche a vostra disposizione. Robotic Majestic, questo è il titolo del nuovo album dal quale ho appena estratto Heavy Heart. In precedenza invece, anche se non c'è bisogno assolutamente di presentarli visto che sono uno dei punti fermi della 14ª stagione di Eclettica sulle frequenze di Rock FM, in precedenza vi stavo dicendo ci siamo ascoltati Frightened Rabbit con The Modern Leper e si chiude invece con il recupero di un disco di cui colpevolmente non mi ero accorto, uscito a fine 2007 per Polyvinyl. Si tratta di una formazione canadese, di un trio canadese che fa di base a Toronto. Loro si chiamano P. Castro e Warlock, questo è il titolo dell'album, è il loro terzo. Un trio che ruota attorno alla voce di Liz Heisen, che è formato da due soli strumentisti. Uno si occupa della batteria e l'altro si occupa del violoncello. Questa è Hortor. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 19, volume numero 4, indice, Cloud Cult, Misophone, Jim Noir, Say Hi, Drink to Me, Alleluia the Hills, Grand Archives, Yellow Fever, Bell, Frightened Rabbit, Ghostland Observatory, P. Castro. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.